Isabella, siamo giunti a mal partito. Perché? Non hai sentito quella brutta parola? E quale? Serraglio! Ebbene! Dunque, bersaglio, tu sarai dunque tu Mustafa. Sarà quel che sarà, io non mi voglio per questo rattristare. Me la prendi così? Che ci ho da fare? Oh, povero Taddeo! Ma di me non ti fidi! Preso mai forse anima mia per un Pompeo, di quel tuo Cicisveo, di quel Lindoro, io non l'ho visto mai in basso tutto. La mal prima di te, non nego, ha molti mesi che d'Italia è partito, ed ora se ne zia la signora a cercare in Gallizia. E tu? Ed io, col nome di compagno, glielo dovea condurre. E adesso, con un nome secondo, poi non serraglio a far, lo pensi il mondo. Ai capricci della sorte, io so fa differente. Ai capricci della sorte, io so fa differente. Mangiarosi pertinente, io so sta. Di soffrire, sì, sono stanca di soffrire, sì, sono stanca di soffrire, sì, Oh, Agitare, abbandare, mi sento un ignoto sapere. mi trasporta il brillare mi fa. Un ignoto soave contento mi trasporta il brillare mi fa. Un ignoto soave contento mi trasporta il brillare, brillare. Voi partite e io m'annoiate, coppa seco e spalle obbedite, ma seco obbedite, voi la bella al mio seno guidate, ma prestate a trovare la beltà. Voi la bella al mio seno guidate, ma prestate a trovare la beltà. La bella, sì, la bella, al mio fuoco il trasporto al piacere, al regista e l'acceso dormivo, questo caro trionfo la bella. Quanto dolce quest'alma sarà, al mio foto, al trasporto, al desio, non resiste l'acceso cor mio, questo caro trionfo alla bella, quanto dolce a quest'alma sarà. Voi partite, non noiate, obbedite, non noiate, o da seco, non vedite, non vedite. Al mio foto, al trasporto, al desio, non resiste l'acceso cor mio, questo caro trionfo novello, quanto dolce a quest'alma sarà, quanto dolce a quest'alma sarà, sarà, sarà quest'alma. Scello a salpare e non attende altri che noi. Voi sospirate. Almeno ch'io possa ancora una volta riveder Mustafa. Sol questo io bravo. Pria di farti dobbiamo congedarsi da lui, ma se vi scaccia perché l'amate ancor, fate a mio modo, affrettiamoci parti di allegramente, e voi siete finalmente giovine, ricca e bella, e al mio paese voi troverete quanti buona donna bramar, mariti e amanti. Il marito al facendo Mi me stesso, per me soltanto ti vedono non so comprendere dal gesto. Oddio che fulmine, non so rispondere, ma mai al suo libero rispondere. Oggi è stupidi, incerti vedono non so comprendere dal gesto. Thank you.